Venga, le llamo compañero. Un comprendido para aquí, por lo mío, señorito, USL. Vale, y cuando Roger. Frecuencia 6565. Por aquí no he escuchado, repite. 5, 6, 5, ok. Come si greca, cos'è lei? Sento, mi scuccia? Mi scuccia? 4, Roger. Por acá, por Tenerife, Canarias. Esta es la 34, India Charlie. 34, India Charlie, 017, Roger. Operatore? Antonio. Io, ok, ti escucho muy bien, non problema, il tuo segnale è un segnale di 5, sì, una radio di 5, non c'è problema, Antonio, ok, per qui è un pochino bassa la propagazione, ok, un controllito per qui al mio segnale, è possibile, compagno Antonio, vale, di 4 i. Ok, non è sta problema, non è sta problema. Ok, compagno, per qui è la mia stazione, il mio apparatito è un apparatito da tempo, lo notificato di salita è un amplificatore che aumenta una valvola ceramica, ok, autocostruito, per qui non è sta problema per la presentazione, l'antenita è 91, ok, compagno, è lei.